Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Giulio Caperdoni che inizia l'ultimo volume della settimana, il volume numero 5 della settimana numero 21. E non so quante ce ne rimangono di queste settimane, perlomeno qua sulle frequenze di Rock FM. Poi si proseguirà, sicuramente si proseguirà in podcasting e poi vedremo quando troveremo un'altra sponda radiofonica a cui attraccare. Fiduciosi, io lo sono. Anche voi, mi raccomando, giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail da utilizzare per mantenere il contatto, per scrivermi i vostri pensieri di questo momento che non avremmo voluto vivere ma che però stiamo vivendo e quindi raccontiamocelo. E myspace.com/eclettica invece è il nostro spazio su internet. Non hai rispettato lo stop, sei passata in volata con la tua giacca di finto lupo, gli auricolari del Walkman pressati nelle orecchie. Aveva appena piovuto e presto sarebbe tornato a piovere. Oltre le ultime fronde dei platani, oltre le antenne, gli storni affollavano la luce cinerea, folate di piume e garriti, chiazze nere che oscillavano, si sfioravano senza ferirsi, poi si aprivano, si sperdevano, prima di tornare a serrarsi in un altro volo. In basso, i passanti avevano il giornale o anche solo le mani sulla testa, per proteggersi dalla grandine di sterco che pioveva dal cielo e s'accumulava sull'asfalto insieme alle foglie bagnate cadute dagli alberi, spargendo in giro un odore dolciastro e opprimente che tutti avevano fretta di lasciarsi alle spalle. Questo era l'incipit di Non ti muovere, di Margaret Mazzantini. just clouds made of metal and spark. We knew exactly who we were and yet couldn't quite say who we still are. I saw it all happening in one grand epic sweep. From that first sight, we wouldn't get to sleep for a week. Generations would follow the course that we'd charted from that sofa across. I couldn't wait to get started. So I remember Mr. Parr was an old hermit. Right. And he lived up on the mountain. He had a place up there, been there for a long, long time. Sort of in the winter, I guess, the fall or the winter 1940, some of the young kids started to disappear, and nobody knew anything about why they were disappearing. Finally, one day, old Mr. Parr come down into the market and said, "I'm finally finished." And what did he mean by that? Well, I guess nobody knew at first, but the police finally went up on the mountain, and they searched his house, and they found the bodies of 7 kids from the area. Wow. And those were the 7 kids that were missing, and then they brought them out of the woods one at a time, and it just was a terrible thing. It just tore the whole community up. Due brani già noti a chi ascolta Eclettiche di lunghezza direi standard, quelli che ci siamo appena ascoltati. Invece sta per arrivare un gruppo che io stesso non conoscevo assolutamente e ho avuto modo di conoscere grazie ad un ascoltatore di Eclettica. Ma prima di parlare di questo vi ricordo quanto già dato in Eclettica. Abbiamo già dato con These United States First Sight, e questa è la canzone che ha aperto la trasmissione, poi seguiti dagli Shearwater che ci siamo ascoltati con Rooks. Il consiglio di cui vi dicevo mi è arrivato da Napoli, da Gianni, il quale mi ha scritto un mail parlandomi di diverse cose, anche fra l'altro grazie per aver trovato la citazione di Terzani, l'ho molto apprezzato. Inoltre non sto lì a congratularmi per le scelte musicali, in quanto giudico eclettica un unico organismo funzionale e perfetto. Vedendo il risultato finale si evidenzia che non stacchi mai ed arrivi alla diretta lavorando di continuo con la passione che contraddistingue le cose veramente riuscite. E poi appunto mi consiglia questo gruppo di nome Have a Nice Life, che è uscito con un disco d'esordio doppio intitolato tutto attaccato Death Consciousness. Questo è un disco che io mi sono ascoltato prima distrattamente dopo il primo consiglio di Gianni, ma poi ho avuto modo di entrarci dentro poco a poco, e avete già capito che anche la durata del brano che io ho scelto non è canonica, è una durata che va oltre il minutaggio solito, siamo infatti oltre i 9 minuti, però sono sicuro che questi 9 minuti non vi stuferanno assolutamente. Loro vengono da Middletown nel Connecticut, si chiamano, come già vi ho detto, Have a Nice Life, e questa è The Big Gloom. Si svegliò, aprì gli occhi. La stanza gli diceva poco o niente, profondamente immerso com'era nel non essere da cui era appena affiorato. Se l'energia di accertare la propria collocazione nel tempo e nello spazio gli mancava, gliene mancava anche il desiderio. Sapeva soltanto di esistere, d'avere attraversato vaste regioni per ritornare dal nulla. C'era, al centro della sua coscienza, la certezza di una tristezza infinita e al tempo stesso rassicurante, poiché era la sola ad essergli familiare. Non aveva bisogno di ulteriore consolazione. Del tutto rilassato e a suo agio, giacque per un poco, assolutamente immobile, poi scivolò in uno di quei sopori momentanei che spesso seguono ad un sonno lungo e profondo. Questo era l'incipit del Tè nel deserto di Paul Bowles. Yeah. Shh.